mente trucia sa compito, più inseputo il tuo destino. Ma quali luoghi comuni a chi se habla della vita che passa per cada figlio di puttana? È supportando l'underground che se puede ganar, luchando con chi il potere será. Ma mi palabras mi cuete, non te olvides lo che hago, il traicionero con mi pinche mancette. La calavera ha llegado, ma si te tengo a mi lado, no tengo miedo soldado. Y tú lo sabes, en lo que tengo confianza, la venganza, te preguntando el tranza. Trampas, siempre trampas y solo trampas, a la distancia se vale de la gran calma. Por el momento pienso solo a confesarme, tomando una cerveza con mi comandante. Gangsta song, oh gangsta shit, everyday, cada día sopra un gangsta click. Non manca niente qui, ci si rilassa, sì, every night con la musica che fa così. Gangsta song, oh gangsta shit, everyday, cada día sopra un gangsta click. Non manca niente qui, ci si rilassa, sì, every night con la musica che fa così, così. Como una bomba yo estallo, soy capitán y general en este lado, tomando una cerveza con mis perros a mis lados, listos para todo, todo el tiempo controlando, aquí con mi raza, con mis cohetes en las manos, aquí con mi raza yo estoy bien preparado, una vez más yo te quiero decir, listos para la guerra, homie, listos para morir, como soldados en las calles protegiendo mi tierra, no hay ningún valiente en este lado que no se atreva a tirar balazos locos como una matralleta. Soy el más chingón, homie, me llaman escopeta. With this gangsta shit, with this gangsta song, controlando lado a lado, best believe that she's on. That's the only way we do it right here in my song. Shotgun la cuneta, records y de aquí no me voy. Gangsta song, oh gangsta shit, everyday, cada día sopra un gangsta click. No manca niente qui, ci si rilassa, sì, every night con la musica che fa così. Gangsta song, oh gangsta shit, everyday, cada día sopra un gangsta click. Se ciò che cerchi nei miei testi è la saggezza, qui c'è roba che assomiglia a merda grezza. Non mi tra spagnolo e italiano suona bene, ma non immediata comprensione. Te lo dico con la lingua che conosci meglio, prepara carta e penna, fatti il bagaglio. Hai sentenziato la tua fine, col tuo modo di dire e non dire come sei sublime. Raffinato intenditore di sta minchia, fammi il piacere, ascolta, non farmi un'altra volta. Recensiscimi sto cazzo, non c'è bisogno che mi dici, sono sboccato, lo sanno. È solo la